Ciao a tutti, amici di Runtime Radio. Io sono Michela De Paola, una delle voci di questa radio e sostenitrice di questo progetto ambizioso che è Runtime Radio. Nasco come speaker con Di Tutto un Podcast e quel bellissimo podcast che un giorno mio marito mi propose di realizzare insieme a lui. E da lì è iniziato un gran bel viaggio nei meandri di quel mondo che ormai in qualche modo possiamo chiamare casa, anche perché la casa è la nostra radio. Ad ogni modo sono felice di far parte di questo bellissimo progetto che mi permette di raccontare una parte inedita di me, che è quella di scoprire quanto divertente per me e quanto mi viene naturale parlare davanti ad un microfono e raccontare la mia musica del cuore. Tra l'altro sappiate che io tutte le domeniche, più o meno tutte le domeniche, vi racconto la mia musica con il mio fantastico programma Mono e vi invito ad ascoltarlo. Vorrei dare a Runtime Radio molto più spazio nella mia vita di quello che riesco a dare, ma per il momento devo dire che sono molto soddisfatta del contributo che sto dando e delle esperienze che ho fatto grazie ad essa e di tutti gli amici vecchi e nuovi che ho potuto incontrare in questo fantastico viaggio. Mi riprometto un sacco di progetti nuovi e mi riprometto anche di riprendere in mano quella vecchia trasmissione o comunque quella vecchia tradizione che era quella di Tutto un Podcast, che ci portava a prendere un tema e a sviscerarlo nel migliore dei modi. E vi saluto, vi invito ad ascoltare Runtime Radio più possibile. E ci vediamo su questi microfoni molto presto.